sente nulla, neanche le previsioni, nulla. Io a casa mi sentivo benissimo. Tu vado in macchina, non c'era quel coso, la cancella in macchina. L'adattatore, non l'hai comprato? Già ce l'ho l'adattatore. Posso attaccare un'antenna qua, ma è... Pensate che denaro possa comprare... Con l'antennino suo, magari se esco già sento. È qua dentro che non senti nulla. Già... In PMR mi senti male, cosa sarà in VUCA? Figurati tu. Il problema è quello. Sei dentro un buco, lo sai di lì. Dovessi provarlo in macchina, dovessi provarlo quel portatile. Metti il adattatore in macchina, vai un attimino in macchina, stacchi l'antenna in gomma e agganci l'antenna esterna. Sì, già lo so. Magari anche con l'antennino suo prende. Perché io mi ricordo che ce l'avevo. Da via Marghinutti. Arrivavo tranquillamente a Porto Torres. Vabbè, aveva chiuso, ce l'hai libero, già lo credo. No, che non si intende nulla. Il coso più assoluto. Dice, mi senti basso in PMR, figurati, capito? Se sei dentro un buco, se ci guardate, in pratica l'ho visto con l'antenna che c'hai fuori. Almeno allungare la staffa, capito? Mettete una staffetta da un metro o due metri, una cosa del genere, una cacciata così. E dovrebbe prendere molto meglio di quello che prende adesso. Quella che ha cacciato la palla purtroppo, l'antenna VHF, non rende nulla, perché ho la X300, l'avevo pensata con l'antenna pipetta a fianco alla mantova e non riuscivo a farla uscire, addirittura mi provocava stazionare la mantova a me, 1.8, capito? Sì, non vanno bene una cacciata all'altra vicenda, non risuona. Ma mica è lunga, amico, la staffa che c'ho. Non è che sono sentita, ma... ricevo bene con quell'antenna. Ma a me in PMR mi ricevi basso. Figurati, il discorso è quello. Se mi ricevi basso in PMR, figurati VHF, cosa vuol dire? Secondo me se vai in macchina, con l'antenna della macchina mi senti benissimo. E lì dove c'era il parcheggiato, dove stai lì parcheggiato. Se ti scelto io il VHF ti metto la portante. La portante di cacciofo li metti. È un po' buono, è quello spandiero, è di bella pure, Sono disintegrati in tutto. No, non è che arrivi così forte da Natalino, Clano. Da Natalino, ho detto, non è che arrivi così forte, noi a disintegrarlo. VHF non è la 27, VHF già c'ho l'antenna grande. E poi non ci ho fatti vostri io VHF, pirati che non siete altro che sempre piratando state. Una volta già usavo il KT33, no, il 212 RH, sembra che lo ha esso, il KT. Con quello già mi divertivo, quando usciva forte con l'apparecchio. Era una cosa allucinante. Quello ce l'ho avuto anch'io. Ma vabbè, c'erano tutte e due comunque. No, ma c'erano tutti così sui ponti, quindi tutti i toni, tutte le cazzate, non è fatto un poco di casino. Vabbè, divertitevela, sono andato a salutarvi. Me ne vado un po' fuori in veranda, c'è un bel po' di sole. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Claudio. Ciao, Claudio. Buon sole, mettiti vicino al coso, ad un albero di coso, di fichi, a me lo fai seduto e mangiando fichi. Ma se non siamo bolletti, se lo vai da me parte in bagno dopo 5 minuti. La mia campagna è quella degli zingari, è una casa con giardino, quindi non c'ho alberi di fichi, non c'ho alberi di niente, solo prato verde e qualche piantina, basta. Quello è... facciamo una berretta, mia figlia mi è arrivata adesso al lavoro e poi se la prende come devo chiamare. Ciao, avanti Natali. Una scelta romantica. Quell'antenna comunque che stai dicendo tu, io non la usavo, no, usavo quella che c'ho in punta. Capito? Dove c'è quella grande, ce n'è un'altra. Ho capito. No, io c'ho l'S200, ma se la metto dentro la sino della parte di coso di via Carlo Felice su non prendiamo un cazzo, c'è il muro, non si sente quasi nulla, l'unica è mettere sopra il tetto, se la metto sopra il tetto però a ricevere ricevo, trasmetto però mi crea problemi alla Mantova, in più la ricezione si abbassa perché è troppo attaccata al palo, l'unica cosa è spostarla dopo 2 metri e basta. Ho capito. Perché mi stavi arrivando più basso in PMR oggi, del solito, perché mi arrivavi bene a me e adesso mi arrivi più basso. Però vabbè, se arrivi qua in PMR, sempre sul canale 7 siete. Sì, sempre sul canale 7, aspetta. L'accendo. Hai sentito i bipiri? No, non arrivi qua. 446-080-82.5, quello lì. No, 075. Ma no, aspetta, sto dicendo cazzate. Stavo dicendo... adesso non mi lamento più. Mi sembra che la... Sì, qua già arrivi, ma... Non mi ricordo la frequenza adesso, Natali. 446-081. 081.25 è clara la frequenza. E lì è, se non parli io non ti sento. Allora parlare tu se ti sento io. Sì, ti sento, ma ti sento tutto gracchiante. Basso, basso. Ma non serve la tua antenna. C'è Giulio, c'è anche. Prova con Giulio, qua. Ci arrivo da Giulio a bomba. È da te che sia Monti o Schioppa, non mi senti. Dove è la partita, c'è antenna. Là, a me mi senti di là. No, non ti sento. Non arrivi, non Natali, non ti sento. C'è antenna che vai, non c'è via la mazza, Antonio. Ehi, ho detto puntata a Monteoro, la direttiva, capito? Quindi tu sei dalla parte opposta, ecco perché. Ah, per quello, va bene, beh, io riesco bene, invece ho le vuole relative. Quindi c'è l'antenna sua, capito? Va bene, dai, vi saluto, ci sentiamo più tardi se coincide, se no fatevi buon fine settimana, ciao ciao. Altrettanto, Cla. Ciao, Tartaria, più tardi, ciao. Bene, ciao, Cla, più tardi, ci sentiamo. Sto lì, feeling, cazzo. Già che mi faccio per forza quel lavoro io. Punta la Sighi, faccio 2 fuori, le gaffe ce le ho già e il paletto e ci metto quell'antenna, almeno 2 metri devo sollevarla per forza dal tetto, se no non rende nulla la X300. Ma anche la X300, Antone, la 500, la 300, per quella frequenza lì non va bene, non va bene. Deve mettere una X50, la più piccola che c'è, più corta possibile, e poi mi dai il risultato, capito? Perché lì quella frequenza lì è troppo alta e quelle antenne lì, quelle che vanno da 144 a 146 e da 430 a 440 non risuonano bene. Se invece le metti quella piccola, una X50, una X30 addirittura, esci una gammonata da anch'io. Guarda, io avevo fatto la prova a Carbonazzi, perché prima avevo la radio PMR collegata direttamente alla 510, mi sono staccato dalla 510 110, mi avevo comprato una X30 che è ancora lì in mansarda, quasi quasi me la porto qua, e c'era un abisso da segnare, 5, 6, 4, tutti a fondo scala arrivavano, tutti quelli che tu sai, tutti a fondo scala, perché l'antenna era piccola, capito, corta, e risuonava un casino. L'ho avuta l'X30 io, l'ho anche provata, no, non avevamo ancora nulla. Prima di usarla io, quell'antenna lì l'avevo usata Giancarlo, l'aveva piazzata a Tizzi, ai Balancelli, non riusciva di nessun modo a farla uscire, faceva neanche 50 metri faceva. Allora avevo preso l'ho data a Tamarino, lui se l'ha piazzata l'altro giorno, l'ha provato, funziona benissimo, mi ha mandato la foto, c'aveva un metro agganciato al cancelletto di casa sua, un metro di altezza, non di più. Vuol dire che da te c'era qualche problema, se no ti ripeto, sono le antenne migliori per quella banda lì, le migliori. Quella grande non serve assolutamente a niente, capito? Va bene, dai, ci sentiamo, vado a rilassarmi un po' fuori, dai, ci sentiamo stasera se coincide, se no le prossime, ciao. Sì, d'accordo, ciao, ci sentiamo. E che non c'è una staffetta di metallo, adesso se no avrei pensato la dia a montare la macchina. Col PL, a ver se sarebbe uscita quella. Comunque la prima volta che ci siamo sentiti avevo usato quella, agganciata dove c'è la mandorla, ma usciva un demonio, usciva. Adesso non c'è staffetta perché l'avevo regalata a Corso, insieme a tante la VHF, VU, a Leoncino, per farlo parlare a casa sua. Adesso non c'ho, il piede ce l'ho, ma non c'ho la staffetta volata per poter installare, e quindi non posso provarla. Se l'avrei provata con la diamante, con quella già mi avrebbe sentito chiunque, avrei sentito anche la carina. Vabbè, prova, devi fare le prove, se no non metto gli piedi. Dai, ci sentiamo più tardi, ciao. Yeah, ciao, Cla. Avanti, la carina. Aspetta un attimo che sto attaccando l'antenna e l'ho ricevuto. Piccolo. Va bene, fai pure. Antonello, ha agganciato quello lì. Non ho capito, l'hai sganciato? L'ho agganciato a quell'antenna, quello piccolino. E prova là. Nell'ultimo canale, dove sei tu? Via. Dimmi quando sei pronto. Sì, ha 2 minuti che lo accendo e te lo dico, te la sono pronto. Vediamo un po'. La scelta si attiva. Vediamo un po'. Eccolo qua, sono già su quel canale, aspetta ti chiamo, non mi senti? No, negativo, aspetta e provo io se senti tu a me. E via. Niente? Io sono sull'88 lì però, non sull'8. E lì ero. Me qua. Secondo me devi andare in macchina per forza, è l'unico modo. Se vai con l'adattatore in macchina ci sentiamo. Lo so, aspetta un attimo, provo l'altra antenna. Che frequenza è? Cazzo, ricordarmelo, l'ho tanto tuo marino, devi guardare. Io non ho frequenza marina, però c'è un 56. 156 e... forse era 157, 425 mi sembra che era. Adesso non mi ricordo bene. 425 c'è la guardia costiera. c'è il meteo? No, ho detto 1,57, 4,25. 4,25, 156, 4,25, c'è la, il meteo. Non intendi? E via, già lo sento, già lo sento. Allora, non mi ricordo, non mi ricordo manco dove ci ho messo il foglio. Prima lo sapevo a memoria la frequenza una volta. Tu la te la ricordi la frequenza dell'88 com'era? Aspetta che provo. Mi senti? 1, 2, 3. Che frequenza è? Aspetta lì, te la ricordi la frequenza tu, dell'88 marino? Quello dovrebbe essere USA. Non me la ricordo, non me le ricordo le frequenze, no? C'ho il canale io. Ma qui ve la metto più, per... non mi ricordo dove ho messo quei fogli. Quando ho fatto pulizia qua a casa perché dovevi valersi a casa, avevo tutto a casa, toglimi tutto, fogli, quello quanto c'era, non mi ricordo dove diavolo ce li ho messi. Aspetta, controllo se riesco a trovare il catalogo della Midland. 2 minuti. No, aspetta a vedere se mi senti, che l'ho attaccata all'altra antenna, quella del PMR. No, voilà. Schiacciando. No, neanche con l'antenna del PMR ti ascolti. Aspetta, controllo la catena, piglio un catalogo da serie per trovare il catalogo della mitra, se c'è scritta la frequenza così te lo io dico subito al clavio. 2 minuti. Mia, lo senti? Adesso non sento. Cos'hai detto? Con tutte e due ricevo, con tutte e due le antenne ricevo. Cosa dice Nota? Questo qua sono il catalogo della Intec, però non c'ho le frequenze solo dell'IPD e PNR. Questo qua è il catalogo mio. Ehi, boh, vabbè, aftidi, era giusto per me se ti ascoltavo, se arrivavi anche qua. A dopo, a dopo. Allora, poi il Pacifico è 5-4-5. Ho trovato del catalogo della mitra, c'è 57 canali internazionali, 20 canali programmati da Russia, consorzio, stai uscendo basso di radio, non si capisce. Ho detto che ho trovato il catalogo della Midland e c'è il Pacific, capito? C'ha 5 watt d'uscita, c'ha. Però c'ha anche i canali 57 canali internazionali c'ha e 20 programmabili. Perlomeno l'originale, poi c'era vabbè ci sono i dischetti per programmarlo, evidentemente quello è stato programmato in altro modo perché arrivassero all'88, quindi c'è il modello nero e modello bianco, però prezzo non c'è scritto quanto costava, a meno che non sia l'ultima pagina. No, ma non credo, questi non ho visto. Ho cazzo la frequenza, non riesco a trovarla, la bagassa, ma non so. Ce l'avevo quei fogli, la fancura a me. Quando ho trasloccato camera, pensavo che ci sono usciti, aspetta un attimo. Ma lo sai che ricevo con quell'antenna sopra la staffa? Allora se ricevi dovresti sentire quello è, guarda come ricevo io, aspetta, lo faccio sentire io così senti i problemi che c'è, aspetta un attimo che vado di lì. Sì, le previsioni sono quelle. Già ricevo già con l'antenna esterna, quella che ho attaccata alla staffa, quella di macchina. Sì, già ho capito già. Aspetta. Allora senti come dicevo io. Sono su 68. Aspetta, vado su 26 non c'è niente, quindi c'ho problemi d'antenna, c'ho. Su quella frequenza 68, sì sì, c'è proprio l'antenna, ecco perché io quella frequenza, ecco perché non ti sento un cazzo, se non sei avessi sentito anch'io, non riesco a sentirlo. Sul 68, sul 68 le previsioni, 68 sono, sì. C'ho problemi, c'è. A San Basso volume. Non ricevo niente io. Sento solo il fruscio. Non ce la fa, capito? E l'antenna mia difettosa, Natalia, non ce la fa. Sento solo il QRM e basta, che di come stanno mandando le previsioni. Adesso in inglese, poco fa l'ho sentito in italiano anche. Ecco, allora l'altra tua già funziona, è la mia che c'ha problemi, capito? E la direttiva c'ha problemi, la mia, no, cioè, ho entrato acqua, non lo so. Infatti mi stavi arrivando più basso in PMR, mi stavi arrivando. Non mi sei arrivato come mi arrivavi sempre, tutto frusciato arrivavi. Hai problemi? Sì. C'ho problemi, sì. Infatti. Neanche tocco quella lì e ci metto l'altra, per forza. Per forza di cose. Ti piglio quattro tasselli di piccoli, ci metto la pipetta e va a far culo. Piazzata. Sì, infatti. Io mi sembra che un'antenna di quella pipetta ce l'ho. Gira gira, mi piazzo quella lì e magari sento lo stesso. Adesso provo. Non riesco a cancellare due memorie dal ricevitore. Il manuale ti deve pigliare. È un casino. Comunque c'ho il catalogo, 5 watt c'ha quell'apparecchio, esce con 5 watt portatile. Lo so. Adesso sto cercando una cosa qua. È che fuori produzione adesso, non lo fanno più. Immaginati. Sì, è stata aumentata acqua, pure mi ha fatto dando quel vento dell'altra volta, perché era leggermente piegata l'antenna, in basso. Mi ha aggressato il soffattetto e controllo. Poi anche la discola, quando l'ho piazzata, per carità, mi creava problemi a me. Vicino all'antenna del baracchino, non veniva arrivata. L'unica cosa è metterla da sola e basta. Se la metto da sola, spostata a meno di 2 metri dalla mandorla, esce bene quell'antenna che ho, la verticale. E beh, cuocuomane. Cuocuomane sarai tu, hai capito bene, beh. Chi è Marcolino? Via Gianfranco, mi. Allora, ho acceso per vedere se l'antenna c'era ancora e purtroppo vedo che c'è ancora. Buonasera a tutti, no? Stavamo facendo le prove con una persona di una cosa. Un saluto a tutti, dai, devo scappare. Aspetta che lo chiedo a Gianfranco, Marco. Ciao Gianfranco. come si cancella nell'Uniden una memoria del privato? Non lo sai tu? No, non ho capito la domanda. Come si cancella? Dove? Allora, mi è entrata una memoria su un canale del privato nel ricevitorino, quello da tavolo, quello Uniden che c'ho io, no? Però vorrei cancellarla questa memoria, come si fa? Devo controllare nel manuale prima, per poterlo dire. Marco, appena entrato già stai andando via, ma non ci puoi vedere. Sei un cuocuomane. No, Gioffra, non è per quello, ma tra portantine e portantine, un giorno sì o no, mi sono anche un po' stancato, non c'è più senso, dai. Aspetta che forse reperisco il manuale online, anche in inglese, tanto lo bene o male si capisce. Un attimino, vai Natali. Ciao Natali, io no, ero immerso nei cavi, perché ho dovuto smontare quella lanterna grande per controllarla, causa trombetta d'aria, e adesso la devo cambiare un palo da 2 metri, chissà se c'è. A Marcolino dopo un anno quasi. Io l'ho telefonato perché mi serviva questa informazione, perché lui c'era uguale al mio il ricevitore, capito Marco? Non avevo pensato a te Gianfra. Non siamo riusciti a fare il lockout definitivo. Bisogna avere il manuale, oppure cancellarla proprio la memoria se si può. Sì, indubbiamente si può, ma per il, a parte premere le occhie e poi quando riaccendi ovviamente la memoria riappare, credo che debba essere premuto per parecchi secondi per toglierla proprio dalla scansione. Allora, abbiamo provato sul canale. Allora, se premi brevemente fai il temporary lockout, come spegni e riaccendi rimette in scansione il canale. Ho provato a tenere premuto per più secondi, fa un doppio beep, però il canale rimane in scansione, non compare il lockout definitivo, perché andando in manuale devi vedere il lockout senza la T sta per temporary lockout, dovrebbe comparire LO, lockout e V. Ma deve premere Leo comunque. Sì, certo, solo che non ci siamo riusciti a fare quello definitivo, perché una volta che riaccendi te la rimette. Infatti l'ho staccato pure dall'antenna per poterlo manovrare meglio qua. Questi apparecchietti da 60 euro. E tra l'altro funziona pure bene. Acqua e funziona bene, sì. Infatti devo cancellare 2 memorie. E lui è puro e sano. Io invece non riesco a trovare, cioè a mano un barilotto, non so dove è finito. Comunque Marco, lì non ce n'è portante, c'è tantissima propagazione. Importanti sono rarissimi, oramai non si ricorda più nessuno, hanno trovato altro con cui giocarsi evidentemente. Natalia, adesso accendo perché ho dovuto staccare un attimino anche il monitor e te lo controllo. Ok, ciao. Quel marino, gatto, mi stavo ascoltando la cosa le previsioni. L'antenna, quella che ho fuori dalla finestra, e riceve, cavolo se riceve. Dipende da dove riceve, perché molti punti sono a Usilo, quindi se non ricevi da Usilo siamo rovinati. Natali, tu. Allora, fermati sul canale che vuoi bloccare dalla scansione e premi 2 volte lockout, cioè la prima che premi ti fa TLO, temporary lockout, alla seconda rapida che premi, in rapida successione, alla seconda ti fa lockout, quella che anche se spegni e riaccendi non te lo scandisce, te capi? Yes, adesso provo, sì, fatto. Marco, di raccontarci qualcosa, c'è 2 anni da raccontare quasi. Non sto accendendo più da 7 settimane, qua ci sono 2 dita di polvere, proprio in stato di abbandono tutto, ricevitori abbandonati, baracchino abbandonato, tutto un po' accantonato, non c'è più la spinta. Poi le giornate mie sono tutte uguali, si fa la spesa, si fanno commissioni, si esce un po' la sera con qualcuno, brevemente, perché a me non piace la gozzoviglia, capito? Sei talmente abituato alla vita di clausura che oramai la fai in maniera definitiva. No, è uscire, già sto uscendo, però sto diventando pantofolaio, abbastanza pantofolaio. Qui funziona tutto bene, Superstart 1009 omologhei, l'antenna è la solita, ancora il vento non l'ha buttata, i radiali forse ci sono ancora tutti, devo guardare. Sì, sì, io ti sento bene, segnale forte. Sembra che vada tutto bene. Io ci ho messo un altro apparecchio per non utilizzare quelli grandi, che questo che sta ascoltando dovrebbe andare bene, il Lincoln 2. E niente, solite cose, una chiacchierata, e poi ci si occupa anche di altre cose contemporaneamente, quindi sempre mentre fa una cosa ne fa un'altra. Tutto lì, però come cosa mi sembra più, come tranquillità mi sembra tutto abbastanza tranquillo rispetto a quell'animale che c'era, quindi è tutto regolare, dai. Ega, Natalino mi pare abbia risolto, ha provato a prevere rapida successione, gli è apparso lockout, ecco quello adesso se tu lo spegni e lo riaccendi quel canale non te lo scansiona, scandisce, come si dice? Vai Natalino. E infatti adesso gli ho attaccato l'antenna e vediamo un po'. Spengo e riaccendo e vediamo cosa avanti. Se invece il canale lo vuoi cancellare, allora io ho trovato qua delle istruzioni in italiano online. Però non sono le istruzioni complete, è il breviario delle istruzioni, con le cose base. Per le cose più approfondite ci vuole l'altro manuale. È come quando compri un prodotto, ti danno il breviario, rapida guida rapida di installazione, poi non ti danno le istruzioni approfondite, capito? Non è giusto anche quello. Vabbè che le istruzioni di certe cose elettroniche manco le leggo, ma sai, ci può essere un'eccezione, una funzione non te la prende perché va fatta con un'altra prassi e così va il mondo. Vai Gianfra, sì, ti ascolto bene, niente da eccepire. Per essere un baracchino penso che non ci si possa di che lamentare. Cosa volevo dire? Sì, un apparecchietto piccolo, voglio dire, che adesso è 68 euro, mi è sembrato di vederlo. Ma il famoso PNI Escort 6500, quello lì? Quanto consuma, ne? Quello scannerino, dai, quello, il più economico che c'è, credo che sia. Ciao Luca. E buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Ritardo sentire, ciao anche Gianfranco, chi c'è pure? Natalino anche, stavamo facendo un'operazione di aggiustaggio di un ricevitore che bisognava saltare un canale dalla scansione, era più semplice del previsto, io credo che bisognasse premere tasti in contemporanea, che ne so io, tasti funzione, invece era talmente semplice che non ce lo ricordavamo più. Vai Luca, quindi Natalino, Gianfranco, io per ora, io no, non sarò molto, e c'ho il computer che sta aspettando ordini. Manco io, sono stato così che sto qualche passaggio. Avanti Natalino col cuomane. Sto operando Natalino, sto operando lì alla, con il ricevitore. Hai sentito Gianfranco, è uscito Windows 11. Sembra che l'abbiano scopiazzato da Apple, gli hanno messo le icone centrali in basso. Poi non so niente del resto, so solo che volendo si può passare, si può tornare anche indietro se uno non è contento, però del resto non so niente, non so driver, bug, ancora è troppo fresco, è appena uscito, mi pare il 5 è uscito, vai Luca. Windows 11, ho capito. E vabbè, io c'ho ancora Windows 7, va benissimo, mi trovo bene, è abbastanza fluido. Poi vabbè, quando gli ho messo l'SSD, ancora più veloce. Poi quando non andrà più, metterò il 10. Ma si può già scaricare l'11, Marco? Sì, puoi scaricare in varie forme, mi pare il formato ISO oppure l'archivio degippabile, poi bypass, ci sono già le tecniche per bypassare quel TPM, Gianfra aiutami, puoi scaricare, bypassare quel controllo dei requisiti di sistema, puoi metterlo anche su computer che non garantiscono il funzionamento, tipo se c'è poco processore, poca RAM, vai Gianfra. Beh, è stato rilasciato appena, credo, la settimana scorsa, che è arrivato l'avviso su molti computer, ora come ora sta apparendo la scritta non idoneo, è una specie di bufala, ma di norma poi hanno chiarito che funziona su qualsiasi PC che attualmente gestisca le ultime versioni di Windows 10, ecco. Poi per quello che riguarda Windows 7, già da alcuni anni, anzi da parecchi anni, credo oramai non c'ha più supporto, quindi anche dal punto di vista dei drive può essere complicato, ecco, cercare di farle digerire, perché puntualmente si fece cercare il contrario, quando era uscito Windows 10 non c'erano i drive, adesso che tutti sono come di drive di Windows 10, il 7 non le digerisce. Questa è anche una questione commerciale, ovviamente. Riprendi Luca. Natalino? Siamo qui, abbiamo sistemato il tutto. Io avrei voluto provarlo questo 11, se si può fare la versione bootable, già capito, avviabile da tipo chiavetta o hard disk esterno, in modo da provarlo su RAM senza installare nulla. È troppo nuovo ancora. Cioè, manco avviabile si può fare, no? Vabbè, dai, tanto mi... Cioè, certe volte non trovi i driver per Windows 10, tuttora, per certe periferiche, anche abbastanza recenti, siamo passati all'11. Allora, domanda per Gianfranco, visto il 10 uscito di scena, avrà ancora aggiornamenti? Per quanto tempo si potrà ancora aggiornare prima che venga abbandonato il supporto? Perché c'era una regola, no? Per tot mesi dall'ultimo aggiornamento è ricoperto, mesi o anni, non mi ricordo. Lo lasceranno, penso, fino al 2002 o anche il 2003, se sbaglio il 2003, il 2023, capito? Poi lo devono ancora perfezionare, vedere un po' le compatibilità, da sperare che come hanno fatto gli ultimi aggiornamenti di Windows 10 non interferisca di nuovo con i drive, perché ha creato tanti casini. Windows 10, quello, il 21H, non so se tu sei scaricato, che praticamente è un aggiornamento del sistema operativo bello corposo. Adesso dall'altra settimana, se non sbaglio, è uscito il Windows 11, però quando è così nuovo, guarda, non ci metti un hard disk di quelli vuoti, in parole povere, quindi non rischi niente, se no, anche perché c'è questo problema che sono sempre associati all'account Microsoft, quindi vedi, quella lì è un po' una scocciatura. Volendo potrei fare, lì gli hard disk sono due, e se un hard disk mettere su quello vuoto parzialmente è quello lì, se si può fare, e usare il dual boot e scegliere con quale partire, almeno a provare che portata è. Luca, sei rientrato? Sì, sono qua, raga, sto cercando una cosettina in camera, Marco. Rimango in ascolto, dipendo magari fra un po'. Gianfra, ti volevo dire, per questa incompatibilità io problemi particolari non ne ho avuto, perché vedo che la stampante funziona sempre in modo eccelso, cioè alla fine è l'unica periferica che uso, il mouse lo stesso, sì. Alla fine non so che, ecco, non riesco a programmare i Baobao su su quel sistema operativo. C'è qualche cosa nei driver del cavetto, non c'era modo. Non c'era modo. Non so cosa cavolo sia, provato a cercarli, non. Niente. Infatti è su quello, stampanti, le scanner, sulle altre cosette non ti danno problemi. I problemi seri sono sulle cose che non tutti usano, tipo io, proprio le chiavette di programmazione, gli accessori, ad esempio, che non tutti hanno, i cui programmi sono dedicati a Windows 10, tipo, che te posso dire, AirNav, radar, la scatoletta radar SDR, WinRadio e compagnia cantante, che insomma gli aggiornamenti si li fanno, però se il prodotto c'ha 10 anni a volte non stanno a perderci tempo, capito? E quindi diventa un grosso problema. Insomma, bisogna essere anche fortunati, sperando che tutto vada sempre bene. È sempre stato un problema, sono un apparato marino che va solo con Windows XP, è moderno e ci hanno messo XP, quindi se devi programmare, ti attacchi al RAM, devi mettere un XP così fittizio, anche in memoria, un sistema operativo virtuale, e tentare di lavorare così, se no è un disastro veramente. Sì, anche virtuale, quella è una cosa che non ho mai approfondito, volevo fare tante cose, non ho imparato niente alla fine di quella roba lì. Vabbè, mi ricordo la frase di un utente Xiaomi, gli Xiaomi di qualche anno fa, no? Dei telefoni Xiaomi, smartphone, dice che aggiornare a quei tempi di Xiaomi era un azzardo, era tipo giocare alla roulette russa, rischiavi di briccare il telefono e buttarcelo. Perché tra l'altro è una questione commerciale anche, oramai c'è il 5G e ci sono tutte quelle altre cose, anche i televisori in pratica è stato costretto a cambiarle, è una politica di consumo, capito? Ho trovato qualche cosetta in più, però la paghi e lavori con quello lì, perché poi magari ti accorgi che la chiavetta che avevi prima non funziona più bene, quindi te la devi ricomprare, e la giostra gira così. Natalino, quindi tutto a posto, confermi? Sì, tutto a posto, ok. Così c'ho anche la frequenza marina separata, quando la voglio accendere accendo. Infatti, meglio avere solo i canali uso, perché poi gli altri sono, ho visto che sono tutti abbastanza tranquilli, cioè da quando è scoppiata questa crisi veramente anche in termini radio si ascolta molto poco. Infatti. Hanno paura che il virus si trasmetta via radio, forse, che cavalchi le onde radio, come aveva detto qualche, cavalcava le onde del 5G il virus, capito? Lasco. Vabbè. Oh Marco, la sentita anche tu, perché quella del 5G, della vecchietta, che dice anche il prete l'ha detto, che adesso mettono questo 5G e con quello che stanno iniettato ti fanno venire tante malattie. No, magari si usano come antenna attiva o passiva, non saprei. Oh, tutto è possibile, comunque il vaccino non è il mio problema. Non ne voglio nemmeno parlare. Vai, cuocomane. Guarda che adesso con la nuova cosa non puoi fare niente praticamente, neanche entrare in ospedale, perché ti fanno confusare la dichiarazione e poi sono casini. Quindi è un problema, è come se non si faccia, ma soprattutto per te, ma io andavo, c'è gente non vaccinata con lo tubo in gola. Io non ci crede lui, no. Io provo a tradiglielo ma non ci crede. Oh yeah. A me, io sono andato in diabetologia, mi hanno chiesto il Green Pass, se no non mi facevano salire. è già successo comunque, Gianfra, ben prima che ci fosse comunque il Green Pass obbligatorio per i lavoratori. A discrezione di un direttore sanitario mi hanno negato l'assistenza medica, dovevo fare delle cose abbastanza banali, dei controlli diciamo del sangue periodici, però non mi hanno fatto entrare, volevano un tampone o un green pass, un coso, praticamente mi hanno cacciato via. Questo non era imposto dalla legge, ma è stata una brillante idea del direttore sanitario, cioè mi facevano entrare in zona rossa, gialla, arancione, e adesso invece non si può più entrare, adesso che si sta quasi risolvendo la cosa. Quindi sto ancora decidendo se fare una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Dipende dall'umore, che è veramente una cosa vergognosa, e non ne voglio parlare comunque qua in questa sede, dai. E non ne parlare, che apparecchio sto usando secondo te adesso, Marcolì? C'è il BIP, potrebbe essere l'HR, potrebbe essere il 3009 anche. Il 3009... Bene, sto uscendo, sono col microfono normale, sono però. Riprendi Gianfra, dai, un attimino che sto andando a batteria là, se no mi si scarica, quindi devo staccare a breve. Vai Gianfra. Sta andando bene a salire, benissimo. Non è cappa. Almeno non si sentono tutti i rumori della casa. L'amplificato può essere utile, però quando ti trascini dietro tanti disturbi è meglio quello normale, e sei a posto, dato che stanno funzionando abbastanza bene questi microfoni a condensatore. Bisogna sfruttarli, io ancora non trovo il maridotto, ce l'avevo qua, chissà dove diavolo l'ho messo, ma vabbè, niente, sì Marco lì, stendiamo un piatto soffello, vogliamo parlare di quella cosa, niente. Ma non è una cosa, sono schifezze mai viste prima, cioè, ognuno nel suo, basta che abbia un minimo di potere, si fa il suo feudo, il suo piccolo, non funziona così, cioè finché è una cosa imposta dalla legge, ma lì era di, poi non mi hanno avvertito, perché loro, come ha detto Natalino, l'infermiera me l'ha detto col tipico modo di fare delle infermiere, no? Che non potevo entrare. Il medico poi con un modo più accomodante, più professionale, dice ho saputo cosa è successo, eccetera, eccetera, dice guarda è una novità anche per noi. Noi lo sappiamo in reparto da soli 2 giorni. E ha detto ma visto che lo sapevate da 2 giorni, cioè 3 giorni prima che andassi, vabbè, ha detto potevate degnarvi di telefonare e io forse avrei fatto un tampone rapido in farmacia e non avrei saltato i prelievi. Invece non sono degnati nemmeno di avvertire, vado lì e vengo cacciato via, come molti altri, che avevano il dentino avvelenato. Non è che ci dobbiamo mettere sempre a 90 gradi per le paturnie del direttori sanitari di turno, sindaci di turno, presidi di turno, cioè Gianfra, io vedo che tu sei molto, la pensi molto in un modo, da lì non ti si smuove, però cerca di capire che un po' il mondo è fatto varie sfaccettature, io la vedo a modo mio e tu la vedi a modo tuo, però non mi sembra giusto questa cosina qua. Vabbè, basta, chiuso il discorso vaccini, riprendi pure, dai, se c'è Luca che riprenda perché io sono stacco, e se no mi si scarica davvero la batteria, devo mettere l'alimentazione esterna. Vai Gianfra. Ok Marco, io ti posso dire che purtroppo, non è come dici tu, ricordati scienza e conoscenza, lasciate perdere i social del cavolo, che anche in questi giorni si è visto quanto sono attendibili, quindi la salute è un bene prezioso, io te lo posso dire, anche Natalino te lo può dire, e anche tantissimi altri che in questo stesso momento che ci stanno ascoltando stanno soffrendo, quindi mettiti una mano sulla coscienza, fai quello che vuoi, per carità, però che il pericolo non è nostro, è tanto, il pericolo è tuo. Quindi sei grande, vaccinato. Adesso vedi, sei grande, non vaccinato. Quindi vedi tu. Ok, riprendi Natale. E infatti ho provato a farglielo capire, ma è riduccio, Marco, guarda, è una cosa che non si crede. Dà troppo retta ai social, lascia perdere. Ha ragione Gianfranco quando dice di affidarsi alla scienza. Vabbè, io non sono io non sono da considerare Novax, però questo diventarsi una cosa abbastanza sperimentale, non è un vaccino solito col virus attenuato o morto come si faceva una volta, un'altra cosa, che ne so io cosa fra mesi o anni. Però non ho interesse a assumere un farmaco sperimentale, d'altronde lì ti fanno firmare la delibera, lo sapete, non li stai sollevando da qualsiasi in teoria azione legale o qualsiasi responsabilità. Allora, se in questo ridicolo stato che l'Italia e i politici avessero voluto prendersi responsabilità vere, bastava dire lo facciamo di prepotenza, legge dello Stato, vaccino obbligatorio. Però se qualcuno ci lascia le penne, almeno vengono risarciti i parenti, invece no, non lo fanno obbligatorio per non pigliarci responsabilità, ma allo stesso tempo non è obbligatorio, ma se non lo fai non entri al lavoro, non entri in isolante, non entri in ospedale, cioè dai, non è gente seria, va bene. Detto ciò, io rilancio Natalino, chiudo che mi devo riattaccare al computer. Un saluto a Gianfranco, Natalino, Luca, tutti gli ascoltoni, ok? Ciao, buona serata. Vai Natalino. Ehi, cerca di farti sentire. Capito? Vabbè, avanti Gianfranco. Ok. Ciao Marco, alle prossime, come ha detto Natalino, fatti sentire, tanto, anzi ti dico, in questi giorni, in queste settimane sta verificando un fenomeno strano, che è quello della propagazione, che stanno arrivando cose mai viste veramente, il Brasile 9, 9,20, cioè cose quasi impossibili. Infatti pensi che siano dei bidoni, poi giri sugli altri canali e li senti lo stesso, insomma cose mai viste, capito, a così grandi distanze. Evidentemente il cambiamento del clima sta influendo anche su quello. Ok, buona serata ancora Marco, ciao. E io, ciao a tutti, ciao. Allora, Natalie, dove l'hai messo il barilotto, cavolo? Ciao Marco, ciao. Beh, Claudio. Oui. E io sono figlio di te, vedi, oramai, passata dentro l'armadio. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Stai bene, sì, tutto a posto. Sì, solite acciacchi miei, stanchezza cronica, mandronia cronica, poi queste paturnie per via di questa storia ormonale che mi vengono le caldane come se fossi in menopausa, proprio caldo in viso, un caldo dopo che mangi, dopo che fai qualcosa, è una cosa incredibile, mai vista prima. Quest'estate ho sofferto così tanto il caldo che non sono potuto andare al mare, immaginati. Io non accendevo da tanto, oggi sono entrato per Natalino a dargli una mano con un ricevitore, poi abbiamo parlato del più del meno, del per, del diviso e così, dai. Non accendevo da giorni, tant'è che credevo che non stesse più entrando nemmeno più. E quindi vai, riprendi, caro, io mi ascolto il passaggio e stavo facendo roba al computer. Riprendi. No Marco, io lo sanno ormai tutti, io entro, saluto e basta, no, è già da tanto che non faccio questo. Ok, poi non so se l'hai saputo, non abito più a Sassari, finalmente sono riuscito a trasferirmi nella nuova casa, dopo tanti anni, quindi niente, ho tante altre cose da fare, quindi la radio è rimasta un po' in parcheggio e ci rimarrà. Dai, un saluto a tutti, ciao Natalino, a te Marco in particolare che era tanto che non ti sentivo, Gianfranco, mi pare aver sentito anche a Luca in lontananza. Un saluto circolare a tutti, dai, vi saluto, vi abbraccio e chiudo, ciao. Ciao di nuovo Claudio, ciao, ben sentito dopo tanto, ti lascio in compagnia di loro due, ciao. C'era anche Luca, chiamate per essere entrato. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Claudio. Ciao, ciao a tutti, buon questo, alle prossime, ciao ciao. Claudio, non è che c'è un tubo da 52, no? 52 no, 52 no. No, perché l'ho usato. Avevo 55, 50, 45 usato, no, non ne ho. Mannaggia, vabbè, lunedì lo prendo rafforzato da cosa? Che sto togliendo i dalmi, ne capito? Cioè quelli grossi che sono troppo pesanti. Infatti c'ho l'antenna VU, la primaria scoricchiata, vabbè che ce ne sono altre 5. Claudio, ma tu hai preso il barilotto che ho appoggiato qua? No, siamo troppo distanti. Se ti serve vieni a prendertelo, già ne ho. Se no cercalo. No, no, infatti me li sono presi una busta intera, i barilotti e PL, Zorra. Però l'ho appoggiato qua. Questo è l'effetto della vecchiaia, quando c'hanno tanto casino intorno, appoggi le cose e poi le perdi. Chissà dove diavolo è finito, ma lo troverò. Natalie, riprendi. Eia, già siamo qui. Adesso purtroppo mi devo staccare perché devo fare una questioncina. Ci sentiamo alle prossime, dai, salutoni. Ciao Claudio, ciao Gianfranco e Luca c'è in ascolto. Alle prossime. Ok, ciao Natalia. Buona serata, alle prossime. Ciao Claudio, io vado a cercare questo barilotto, se lo trovo, chissà un dire. Ciao, ciao ragazzi, anch'io sto facendo cose, non posso rimanere per radio, sappiate che sono sempre accese, vi ascolto volentieri, ma voglio riparlare, poca. Ciao, ciao. Una curiosità, ma tu li senti questi sotto che stanno sempre a parlare? Sì, sì, sì, arrivano, come si arrivano, anche bene. Perché l'altra volta li stavo cercando, perché hanno detto una zona, pensavo fossero russi e non sono russi, chissà di che posto sono questi che stanno arrivando così sparati. E boh, sto cercando di capire anch'io, parlo una lingua un po' particolare, non so, comunque arrivano 5, 6, 4, dipende. QRM non ne ho, io ho un filo di QRM proprio rispetto a Carbonazzi qua, è micidiale, proprio QRM è zero. Con propagazione rifà 1, 1,5, ma non supera i 2, quindi segnali anche bassi li ricevo molto bene. Sì, anche io lo stesso QRM fortunatamente non ce n'è per mettere a ascoltare queste cose, ma ascolto anche cose strane, perché su canale 15 a 135 sentivo questo che diceva servizio radiotelefonico eccetera eccetera, a volte arrivava forte, a volte basso, e poi c'era anche una signorina, alla fine sentiva anche il coso telefonico, sicuramente qualche servizio particolare marittimo, però su canale 15. Quindi ho cercato questa zona e non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. Cose strane. Lo sai, mi viene la propagazione strana, e a volte ascoltiamo cose che non ci immaginiamo neanche, però arriva, non lo sarei mai aspettato, una posizione ottima questa, ascolto molto molto bene tutti, vabbè, la città non ha problemi, però anche fuori la propagazione è molto molto meglio, molto molto meglio. Va bene Gian, dai, rimango in ascolto, se coincide ci sentiamo dopo, devo fare due cosette, me le devo, pensavo piovesse, oggi invece non ha piovuto, quindi do una fiatina a delle piante nuove che abbiamo messo e poi me ne rientro dentro perché sennò inizia il freschetto. Dai, ci sentiamo, ciao Gianfranco. Sì, è già iniziato il freschetto, comunque anch'io ne ho approfittato per buttare giù l'antenna, anche se poi ogni tanto c'era